sono? Buonasera e benvenuti a questa prima trasmissione in diretta ufficiale a Radio Fujiko di Mighty FM, decima stagione, la nostra sigla di Beethoven, l'Inno alla Gioia, la Sinfonia numero 9 ci accompagna e ci accompagnerà per la prima volta in versione originale dopo che negli anni abbiamo suonato le versioni più disparate. Adesso per questo passaggio, decima stagione, passaggio di radio, abbiamo deciso di mettere finalmente l'originale. Per chi ci ha già seguito su Facebook, i nostri post presentazione, saprà che questa prima puntata ufficiale è dedicata ad un evento che si svolgerà a Torino per il 18° anno. Si tratta del Club to Club Festival, ormai il festival più autorevole del settore della musica elettronica, del digitale e anche dell'avant pop, del pop d'avanguardia. Iniziamo appunto con un artista anglosassone, si chiama Tirza, sarà protagonista della serata di apertura di giovedì 1 novembre presso le officine OGR, Officine Grandi Riparazioni di Torino, e abbiamo fatto come nostro solito un collage di diversi pezzi perché ce ne sono piaciuti molto di questo album vero e proprio di debutto dopo qualche EP e singolo negli ultimi 2-3 anni. L'album si chiama Devotion e questo è il primo pezzo che suoniamo, che si chiama Do You Know. Do you know, I think about the time we were together and I thought that I would call you but I never could do it. I don't get into begging to make you want me back, yeah, that's my pride. Do you know, sometimes it's like I never even knew you. I'll be feeling good cause my head is thinking clearly, but all it takes is just a split second and there you are in front of me. Questo secondo pezzo che stiamo ascoltando si chiama Gladly, abbiamo già detto il titolo dell'album, Devotion, di questa giovane cantautrice britannica che ha esordito nel 2013 con il primo EP e adesso 5 anni dopo il debutto con l'album. È un lavoro che è stato sempre sostenuto e anche in questo caso proprio nel ruolo di producer, insomma della parte musicale in collaborazione con Tirza, di Mika Levi, che si può sentire per esempio in questo pezzo un po' la sghembaggine, direi io, di Mika Levi. Hanno fatto una scuola insieme, dopo Tirza si è dedicata ad altro, mentre scuola di musica, mentre Mika Levi ha fondato i Mikachu and the Shapes. Maybe it's stupid, I'm on myself, but I'm hoping E poi niente, ha deciso di ritornare alla musica, ha pubblicato qualche singolo, qualche EP, e adesso è appunto il vero e proprio debutto con Mika Levey al control, che adesso non suona più con nome di Mika Chu and the Shapes. La sua band aveva cambiato nome, ma lei nel frattempo si è fatta proprio un gran nome anche come autrice, compositrice adesso a tutti gli effetti di colonne sonore, a partire da Under the Skin, il film con Scarlett Johansson, ma anche per esempio Jackie, il film con Natalie Portman sulla vita di Jackie Kennedy Onassis. E dicevamo, non ha bisogno di presentazioni ormai il Club to Club Festival, abbiamo detto 18ª edizione, e questo primo evento di apertura giovedì 1 novembre è a ingresso gratuito, l'abbiamo detto presso le Officine Grande Riparazioni, anche uno dei luoghi della ex grande, insomma lunga cultura industriale della città di Torino, che invece sono stati riconvertiti come luoghi dati agli spettacoli, alla musica, all'arte. Siamo state l'anno scorso per la prima volta all'OGR per assistere a uno degli 8 concerti dei Kraftwerk. Non ci saremo purtroppo la serata di apertura, ma ricordiamo che è una serata di ingresso gratuito, nel senso si va sulla pagina dedicata sul sito club2club.it, dove ci sono tutte le informazioni, e c'è questo link dove ci si può iscrivere, ovviamente first come first serve, nel senso chi prima arriva bene alloggia, nel senso che è a esaurimento posti. E appunto in questa prima serata ci sarà Tirza, ma ci sarà anche Col Super. Devo dire che praticamente tutti gli artisti che parteciperanno a questa edizione Club to Club hanno ottenuto per i loro album dei voti molto molto alti su Pitchfork. Per esempio il disco di Tirza ha avuto un 8.3, e invece adesso siamo passati all'altro nome della serata. Il suo nome d'arte è Col Super, ci ascoltiamo anche qui 3 pezzi del suo ultimo album, che però è credo del 2017, e l'album si chiama Arpo, forse del 2018, ma che differenza fa? E ascoltiamo appunto la title track Arpo, seguita da Corals e seguita da No Wonder We Go Under. Col Super. Super è lo pseudonimo scelto da Joseph Richmond Seaton, DJ e musicista di Londra, un meticoloso approccio alla composizione, produzione, direzione artistica e presentazione del suo lavoro. Eh sì, avevo indovinato, questa arpo è del 2017, un typo, un errore di battitura della pagina dedicata a quest'artista sul sito ci dice che è uscito nel 2107. Dopo il primo pezzo abbiamo sentito Corals e adesso credo che siamo proprio al terzo pezzo, No Wonder We Go Under. È finita quindi la tripletta dei pezzi che abbiamo scelto di far ascoltare di Cole Super e siamo passati invece ad un'altra artista e siamo anche passati ad un altro giorno. Siamo alla giornata del venerdì, che si sa insomma che la data del venerdì e del sabato, insomma le date centrali più zeppe di eventi e concerti si svolgono negli spazi del Lingotto Fiere. Uno dei nomi che noi aspettiamo insomma con più trepidazione, che siamo stati molto contenti di vedere in cartellone, è quello di Avalon Emerson, artista DJ americana nata e cresciuta in Arizona e poi dove si è spostata secondo voi, diciamo tutti in coro, a Berlino. In realtà sarà la seconda volta che la vediamo, perché già alla Festival Primavera Sound di Porto l'abbiamo ascoltata e ballicchiata e suonammo uno dei pezzi della sua ultima pubblicazione più recente, comunque risale al 2017, che era Whiteys 013, poi c'è stata un'altra pubblicazione precedente, Whiteys 07 credo, che poi insomma è l'etichetta, la sua etichetta credo, non so, per cui incide, ma ho trovato ancora prima un EP del 2016 da cui stiamo ascoltando Natural Impasse. L'EP si chiamava Narcissus in Retrograde, quindi non un pianeta ma Narciso retrogrado. una DJ molto eclettica. E come mi è capitato diverse volte di dire, sono proprio le DJ, le producer donne che stanno facendo le cose un po' più audaci, più sperimentali. Parlo di Avalon Emerson, parlo di Lena Villikens, parlo di Elena Colombi, che ci sarà anche presente al festival, che abbiamo visto nella preview del Robot Festival qui a Bologna. E dopo aver sentito Narcissus in Retrograde, ovvero Natural Impasse tratto da Narcissus in Retrograde, adesso ci ascoltiamo quella che era la seconda traccia contenuta appunto nel Whiteys 013, ovvero Finally Some Common Ground. E dicevamo di come, insomma, il festival Club to Club non ha bisogno ormai di tante presentazioni. È diventato, il festival, non c'è niente da dire, più autorevole riguardo alla scena elettronica, la scena della musica sperimentale, diciamo sempre elettronica, che non è solo clubbing, non è solo musica da ballare, ma anche spesso appunto ha un'impronta molto molto sperimentale, e quello che è considerato l'avant-pop, ovvero tutto quello che c'è di avanguardia e anche appunto nell'ambito del pop, quindi proprio una fotografia della contemporaneità. È sempre stato così in una città che si è dedicata appunto anche, l'abbiamo detto, dedicando degli spazi ex industriali ad attività artistiche, come fa comunque anche il Today's Festival di stampo più indie rock, pop alternativo, alla contemporaneità, all'arte contemporanea. Ricordiamo infatti che questo weekend, oltre ad essere appunto un semiponte, sì, un ponte, è un weekend di fuoco ormai dagli ultimi anni a Torino, perché oltre a Club to Club c'è anche Artissima, ovvero la fiera di arte contemporanea, poi l'equivalente di Arte Fiera qui di Bologna, e siamo arrivati a un altro nome del cuore. Anche sui Beach House non è che c'è tanto da dire, eh? Hanno pubblicato quest'anno, forse è vero, ci sono i dischi del cuore di Beach House negli anni passati, però questo album è nuovo, perché diciamo che siamo stati sempre abituati a sentire un po' gli stessi suoni, invece hanno usato molto di più, hanno variato molto di più, ci sono veramente tante cose nuove in questo Seven, il settimo disco. L'abbiamo visto diverse volte dal vivo, li vedremo ancora, in realtà l'abbiamo visti proprio meno di un mese fa, anche per questo tour dedicato a questo album, e siamo molto molto felici di poterli rivedere. Siamo anche molto felici che Club to Club si stia aprendo appunto alle realtà anche pop che appunto sconfinano nell'indie. E dopo averci fatto una gran sorpresa, uscendo come primo singolo con Lemon Glow, poi è uscita questa Dive, che sì, inizia in modo classico, procede, continua in modo classico, dello stile a cui Victoria Legrand e Anna Skelly ci hanno abituati, ma poi finisce appunto con un'esplosione satura pirotecnica, non a caso, spoiler alert, è il pezzo con cui chiudono i loro concerti e adesso finisce. Altro che coda, sono quasi 2 minuti. La maestosa Dive, non magari maestosa come altri pezzi, insomma, come Zebra per esempio, che non hanno fatto dal vivo, sono rimasta male perché non hanno fatto, insomma, dei pezzi che tipo Silver Soul non l'hanno fatta. Io controllavo tipo le 20 scalette sempre diverse, odio un po' quando gli artisti cambiano le scalette a ogni concerto, è anche vero che magari uno non dovrebbe farsi l'autospoiler prima. E in questa apertura alla scena più indie abbiamo un nome che poi comunque anche in passato, insomma, c'erano stati gli Swan, c'era stata Anna von Hauselwolf, insomma c'erano state, insomma, delle cose anche abbastanza eccentriche rispetto al mondo dell'elettronica. E appunto uno dei nomi che spiccano all'interno di un panorama altrimenti, insomma, conosciuto di nomi noti della scena clubbing elettronica è quello dei danesi Ice Age. Band di Copenaghen, punk rock, nati nel 2008 quando l'età media dei componenti era di 17 anni. Guidati dalla anima un po' maledetta, un Baudelaire contemporaneo, ovvero Elias Bender Rönnfeld. Hanno pubblicato un album omonimo nel 2009, poi nel 2013 Lower Ice Age era un split album, poi To The Comrades, questi erano tutti EP, e invece il primo e vero proprio album New Brigade del 2011, e siamo arrivati al quarto, Beyondless, uscito quest'anno, anche questo super lodato dalla critica. Pitchfork appunto gli ha dato un 8.6, per dire, e non ho detto che invece Beach House con Seven hanno avuto a Pitchfork un 8.9, cioè. All'inizio abbiamo ascoltato il pezzo di apertura di Beyondless dal titolo Hurrah, invece questo è il singolo Take It All. Sì, appunto, questo album più che punk, post-punk, è pop dark, ovvero pop gothic, una grandeur, una maestosità anche nei suoni. Beh, soprattutto nei suoni fanno musica. Il cantante definito appunto dalla recensione di Pitchfork un poeta draculiano che sperimenta costantemente. Poi un'altra definizione del cantante è come un Rimbaud nato nella famiglia Adams. Ricordiamo anche una collaborazione quest'anno, l'anno scorso, un duetto con Sky Ferreira. Sky, noi ancora stiamo aspettando il tuo secondo album, vedi un po'. Ice Age, una delle, insomma, nomi nuovi di scene nuove, scene altre al Club to Club Festival 2018. Ancora parlando della serata del venerdì, abbiamo detto, insomma, le serate del venerdì e del sabato si svolgono nello spazio del Lingotto Fiere, quindi proprio sopra a Mirafiori c'è anche la metro, c'è gli stabilimenti dell'FCA, c'è un mega centro commerciale col cinema, c'è Italy, insomma non potete sbagliare, e vicino c'è la C Hotel, dove ci sono gli incontri sponsorizzati dalla Absolute, incontri con addetti ai lavori, musicisti. Io ogni tanto ne seguo qualcuno, quello con Jeff Mills è stato molto bello, c'è la radio, sono tante cose, soprattutto se avete il badge da andare a ritirare dovete andare lì. E siamo arrivati, sempre, siamo ancora a venerdì sera, non ho detto che Lingotto ci sono due palchi, come sempre c'è il main stage e c'è il secondo palco, che a differenza degli altri anni non è il Red Bull Music Academy stage ma il Crack stage, non so se ci daranno qualche omaggio. E dopo, sì, non ho neanche detto che stiamo seguendo pedisseguamente la programmazione del del main stage, non sono ancora usciti gli orari, per cui così come li abbiamo visti, magari, non so, ieri oggi saranno usciti, ma noi ce li siamo segnati così, quindi come li abbiamo trovati scritti li stiamo suonando. Quindi dopo gli Ice Age c'è Jamie XX, che è un po' il prezzemolino. Adesso io non mi ricordo se c'era anche prima che Fever Ray purtroppo ha dato forfè per problemi di stage fright, appunto ansia da palco e ansia da volo ormai ingestibili. Siamo state fortunate appunto in retrospettiva da poterlo vedere al Primavera Soundport, è stato praticamente il concerto più bello di quel festival, e lui insomma quando qualcuno dà forfè rimpiazza qualcuno, anche come Frank Ocean ha dato forfè a Barcellona, hanno messo lui. Infatti ho visto anche quei finti cartelloni che fanno dei festival, c'era sempre tipo Jamie XX in sostituzione di qualcuno che ha dato il pacco all'ultimo momento. Jamie XX non è che ha fatto, oltre al meraviglioso lavoro che fa con gli XX, non ha fatto altro oltre a In Color, bellissimo, il 2015. Cercando delle notizie, delle novità su Jamie XX, vedo tantissimi articoli che dicono Jamie XX e Sebastian faranno la colonna sonora del nuovo film di Romain Gavras che andrà a Cannes, che si chiama Le Monde est à toi, e non capisco perché festival anche italiani, l'ho visto al Torino Film Festival, rimanendo geograficamente in tema, usano il titolo internazionale, ovvero The World is Yours, credo che non sia filologicamente corretto. Insomma, io mi adopero per cercare in tutti i modi questa colonna sonora, non la trovo da nessuna parte, addirittura penso di scaricare il film, trovare il film, guardarlo in streaming, non lo trovo, alla fine vedo che la colonna sonora è su Spotify. È che alla fine non è vero niente, cioè tutti i media hanno dato grande pubblicità a questa cosa, in realtà la colonna sonora è sicuramente curata a Sebastian dalle scelte dei titoli che ho visto, e Jamie XX ci ha messo due pezzi, nel senso, stati scelti due suoi pezzi, ovviamente da In Color, e ovviamente stiamo suonando Obvs, uno dei due pezzi, obviously, contenuti in In Color e scelti anche per la colonna sonora di questo film, che ricordiamo comunque il rapporto tra Romain Gavras e Jamie XX è un rapporto importante, in quanto Gavras ha curato la regia di un video che ha fatto scuola, ovvero il video di Gosh, dove ci sono queste centinaia e centinaia di giovani cinesi tutti uguali con i capelli platino che marciano in questa città deserta che contiene appunto, che è una replica di Parigi sotto la Torre Eiffel, un video che ha fatto scuola, tanto che viene anche insegnato alle scuole di settore filmmaking, perlomeno dal mio amico Wally. Siamo passati ad una vecchia conoscenza, non vecchia conoscenza, ma diciamo che sì, l'abbiamo vista una volta dal vivo all'ex ospedale di Bastardini, e questa cosa l'abbiamo detta poco tempo fa in radio, perché l'abbiamo nominata e suonata e poi successivamente vista live nella trasmissione e per parlare e poi al Spring Attitude Festival. Parliamo di Peggy Gou. In studio si balla. Abbiamo detto Corea del Sud, adesso si è spostata anche lei a Berlino. E la prima volta quando la suonammo a Might FM era un pezzo di Art of War 2, quindi c'era anche un EP precedente, il 2016. Poi nella scorsa trasmissione abbiamo suonato l'ultimo singolo, Traveling Without Arriving, e questo invece ha dell'EP uscita a gennaio 2018 che abbiamo citato in trasmissione ma non abbiamo suonato, si chiama Once, molto figo. Sono tre tracce, la terza dove praticamente anche rappa e canta, e questo pezzo è il primo pezzo dell'EP, si chiama It Makes You Forget It Gane, che è appunto la traduzione in inglese del testo della parola in coreano, il pezzo dove lei per la prima volta ha cantato. in coreano, anche questo Pitchfork 7.7 per un dei pezzi che hanno molto il feel della house degli anni 90. Capita, facciamo degli edit dei pezzi che suoniamo, che questo l'abbiamo ridotto penso di un minuto e mezzo, ma comunque il feel del pezzo si può sentire. E guardando sempre la recensione di questa traccia proprio di Pitchfork, inizia dicendo: DJ producer Todd Terry una volta ha definito l'house non semplicemente uno stile musicale, ma un sentimento, una sensazione in se stessa. E se questo è vero, questo vale anche per Peggy Goo, che per fare questo EP e questo pezzo si è ispirata alle emozioni che sente quando ovviamente crea la sua musica. E adesso passiamo idealmente al crack stage, dove sono le cose un po' più edgy, un po' più di confine, di frontiera, anche a volte un po' difficili, anche un po' noise. E iniziamo, sempre seguendo l'ordine che ci viene dal sito, con non con David August, ma con David August, essendo egli di Germania. Che sto visualizzando la sua scheda di Wikipedia, capisco tante cose. È la scheda in tedesco, perché esiste solo in tedesco, però qualcosa la capiamo e io posso capire che è nato ad Hamburg e che il suo nome di nascita è David Nutkemper e che è italo-tedesco in realtà. Che ha iniziato a fare musica a 17 anni, che il suo debutto è stato attraverso un remix di Oliver Kolecki, e questo pezzo mi ricorda troppo i Dark Side, troppo la chitarra di Harrington e Nicholas Jarre, mentre la voce mi ricorda quell'altro che adesso non mi viene il nome. Ok, fatto tanti EP dal 2009, adesso ad occhio penso che siano più di 10. Tantissimi remix. Un album Times nel 2013, ma i pezzi che stiamo ascoltando sono tratti dal suo ultimissimo lavoro, che si chiama D'Angelo, come Nino D'Angelo, di apostrofo Angelo, che poi di A ho notato mautisticamente sono anche le sue iniziali, e che è sicuramente un disco, un concept dedicato a Caravaggio, non a Michelangelo, ma a Michelangelo Merisi, ovvero Caravaggio, perché c'è un pezzo che si chiama The Life of Merisi, e quindi ho visto anche delle sue foto in bianco e nero molto belle davanti delle facciate di chiesa indubbiamente italiana. E abbiamo sempre qui fatto un mix tra due pezzi. Il primo pezzo si chiama Narciso, proprio così all'italiana, e poi la title track da Angelo, ovviamente sempre degli Edit. Molto bello, David August, e stiamo sempre parlando della serata del venerdì 2 novembre, Club to Club Festival, 18ª edizione, festival dedicato alla musica elettronica e all'avanguardia, diremmo ormai in ogni scena, e siamo passati con David August alla programmazione Crack Stage, dove ci saranno anche gli Equinox, come ho scritto nella scheda di presentazione. È sempre più comune vedere la presenza, l'emergere di musicisti che vengono da aree geograficamente centriche alle solite Europa e Nord America, e anche in questo caso si tratta di un duo che viene dalla Giamaica, e sono gli Equinox, ovvero Equinox KN, e stiamo ascoltando due pezzi tratti dal loro album del 2017, Cologne Man, Cologne come Colombo, immagino, e Cristoforo, e stiamo ascoltando un pezzo che si chiama Sent for Ducklings Got Ducks, che sarà seguito da Waterfalls in Ocho Rios. Io conosco Sete Rios a Lisbona, questo sarà in Giamaica, immagino, o no? Non credo che ci abbiano nomi ispanici in Giamaica. Sono stati definiti gli alfieri della digital dancehall, no dancehall, ma dancehall, come dicono in Salento, che hanno pubblicato per l'etichetta dei Damn Dykstair, che abbiamo suonato e visto a Spring Attitude. E siamo passati a Waterfalls in Ocho Rios, di base a Kingston, ovviamente, ma fanno parte appunto della scena giamaicana, anche della scena reggae, da almeno una decina d'anni. I membri di Equinox sono Gavin Blair, nome d'arte Gavsbork, Bobby Blackbird e Jordan Chang, detto Time Cow, e anche con la collaborazione delle vocaliste Shanique Marie e Chemical. E sempre cercando un po' cosa ha detto Pitchfork di questo disco, a cui ha dato un 8.1, ho trovato proprio un'idea. Io non so se i recensori, insomma, se le segnano certe cose che poi dopo pensano di usarle al momento giusto, o se proprio gli viene fuori così dal disco che devono recensire. E dice che le texture di questa musica, di questo disco. Saltalo fuori dalle casse con precisione clinica, due punti, asciutto, asfittico e carico di elettricità, una specie di gioco pietra, carta, forbici, dove però questi tre elementi classici del gioco sono sostituiti da pacchetto di silice, quelli appunto che si tengono per assorbere l'umidità, la macchina per impacchettare sottovuoto e una spazzola antistatica. Ovviamente non suoniamo tutti i pezzi, tutti gli artisti. Non suoniamo tutti gli artisti che sono in cartellone, perché in alcuni casi si tratta appunto solo di DJ che non hanno produzioni a loro nome. E infatti nella programmazione c'è anche Joyce Rebel, anche questo astro nascente della console anglosassone. My silhouette stays petting these thoughts, hand gestures and my reflection. Mic in hand, that's my cellular phone. Mirror, mirror, will I make a doubt? Mirror, only you can see my doubt. E rimanendo appunto in tema con suoni che vengono da aree geograficamente eccentriche, stiamo ascoltando, adesso lo leggo bene, Obong Jayar, viene dalla Nigeria, vive a Londra. E di lui appunto Pitchfork dice che fa degli spirituals ultraterreni. Il pezzo che stiamo ascoltando è Creeping, tratto dal suo EP di quest'anno che si chiama Home. E infatti questo pezzo sarà seguito dalla title track Home, un EP, forse dei pezzi sono quasi degli schizzi, delle idee buttate giù, magari non completamente sviluppate, sicuramente a livello di durata dei pezzi, tanto che sono 5 pezzi e superano di pochissimo i 13 minuti. Vero nome Steven Umo, e è cresciuto in Nigeria ascoltando l'hip hop americano, soprattutto Nelly e Eminem, e quindi ha pensato da grande farò il rapper. Però si è ritrovato appunto in Inghilterra con l'accento sbagliato, perché dice per chi canto, perché voglio cantare, ho l'accento sbagliato, tra l'altro sono anche un po' un ciarlatano, perché non sono neanche mai andato in America, perché devo cantare con l'accento americano. È andato comunque in Inghilterra a fare l'università e ha cominciato a suonare dal vivo, rendendosi conto che poi alla fine è più un cantante che un rapper. Adesso è arrivato a 25 anni e fa musica appunto con lo pseudonimo di Obong Jayar. Elementi di spoken word, di elettronica e afrobeat. I've been gone way too long. cause I've lost my way. Siamo ancora al venerdì 2, siamo ancora al crack stage, siamo passati a Brian Müller di Monaco, il suo pseudonimo è Ski Mask. Ci ascoltiamo invece un solo pezzo, a volte devo un po' limitarmi nella mia, insomma, il mio entusiasmo di suonare più pezzi dello stesso disco, perché poi non so scegliere, si sa che io non so scegliere, non sono una donna da ma piuttosto da perché non si può fare questo e anche quest'altro, ma stiamo ascoltando in questo caso un solo pezzo tratto dal suo ultimo album del 2018, edito dalla Ilian Tape, etichetta tedesca che è diventata famosa per pubblicare album di musica techno che comunque incorpora anche breakbeat. Io in questo disco che si chiama Compro, non so, l'ho già detto, sento anche un po' i suoni di Prefuse 73, un po' di Birds of Canada, e questo è il secondo album di Ski Mask e da questo Compro stiamo ascoltando Rev 8617, che si potrebbe anche dire Rev 8617. Abbiamo scelto questo pezzo anche perché un po' unisce le due anime del disco, ovvero l'anima ambient e l'anima breakbeat drum and bass. Sono dei pezzi molto molto più drum and bass al limite della jungle. Alla fine di Ski Mask, con questo pezzo tratto da Compro, sì, adesso lo so che l'ho detto più o meno 6-7 volte, ricordiamo che comunque nella lineup ci sarà anche Elena Colombi, l'abbiamo citata prima, l'abbiamo sentita per la prima volta a Robot, la preview a Palazzo Renzo il 14 settembre, sì, e ci è piaciuta molto anche perché in fine di set ha messo dei pezzi appunto dark, post-punk, ci è sembrata appunto un'attitudine molto punk, italiana, cresciuta in una famiglia non convenzionale e anticonformista, si è trasferita a Londra nel 2008 organizzando una serie di party che l'hanno resa nota nella scena underground, e adesso autorevole DJ conduttrice su NTS Radio, la radio che noi nominiamo tante volte perché da Mount Kimby a tanti altri, adesso non ricordo, ho messo un pezzo di qualcuno nella trasmissione su Spring Attitude dicendo che anche lei sembra fosse una donna, ha iniziato anche ad avere un suo programma su NTS Radio. Elena Colombi, ritmi industriali, pulsazioni techno, atmosfere ambient, passioni baleariche, proto house, e altra World Music per un set super dinamico ma assolutamente equilibrato. Troverete queste informazioni, cose che sto leggendo qua e là, nel sito club2club.it, dove ci sono informazioni sui biglietti. Mi sembra che adesso il Golden Pass del weekend non sia andato sold out e tutte le altre attività collaterali. Ma chi è che stiamo ascoltando? I più attenti avranno già riconosciuto la stella di questa edizione, tant'è vero che praticamente il logo di quest'anno di Club to Club è diventato il suo logo, così riconoscibile. Addirittura hanno pubblicato qualche giorno fa un video in cui la mole antonelliana, sulla mole antonelliana, si stagliava a mo' di simbolo di Batman, il simbolo di Aphex Twin, Richard D. James. Stiamo ascoltando un collage, come sempre, di due pezzi tratti dal suo nuovo EP. Lui ha fatto così, per un sacco di tempo si è fatto desiderare e poi ha cominciato a far uscire roba un giorno sì, un giorno no. Questo Collapse EP è uscito ad agosto. E abbiamo fatto un mix, dicevo, tra due pezzi. Uno è First 44, è incredibile appunto come nomina i suoi pezzi. E mentre, diciamo, il pezzo guida di queste EP è la prima traccia, che è T69 Collapse, e siccome spesso pubblica più di una versione, anche in passato siamo trovati a preferire versioni alternative, non quelle principali dei suoi pezzi, infatti adesso ci abbiamo attaccato l'ultima traccia dell'EP, ovvero T69 Collapse, tra parentesi quadra, io amo le parentesi quadra, Durichroma, Aphex Twin. Ha avuto un 8.1 da parte di Pitchfork, parlando appunto di questa renaissance, questo rinascimento di Richard D. James, che continua appunto con questa ultima uscita. Dei suoi cambi classici, l'abbiamo visto dal vivo già una volta a Porto l'anno scorso, è stato piuttosto anche un po' fisicamente molto demanding. Eh sì, a volte è un'esperienza un po' demanding vedere Aphex Twin, ascoltare, anche perché poi non smette mai, il livello di noise a volte è insopportabile. È sicuramente lui la stella di questo festival, che è pieno di debutti italiani ed esclusive italiane. Your skin's a fire that shines for us all, you said before. E non abbiamo detto che, vabbè, Elena Colombia è l'ultimo nome del programma del venerdì notte, e Aphex Twin, sempre in ordine di come ci è stato presentato fino a quando, insomma, abbiamo iniziato a preparare la trasmissione della giornata di sabato 3, sempre al Lingotto Main Stage, era quello di Aphex Twin, mentre adesso il secondo nome è quello di Blood Orange. The saint you were before. Your skin's black and shines for us all, you said before. The brown that shines and lights your darkest thoughts. Blood Orange, lo pseudonimo crediamo forse definitivo, ma in realtà no, ma chi se ne frega, lo potrebbe anche, mi sono un po' maramaglionchizzata, potrebbe anche cambiarlo ancora, Devonte Hines, ovvero David Joseph Michael Hines, inglese, e infatti noi abbiamo conosciuto come l'High Speed Champion, che era veramente un British indie songwriter, poi ha cominciato a suonare, vabbè, anche con le Test Icicles, e poi è andato in America e ha cominciato anche ad interessarsi molto alla sua identità come persona di colore, in un'epoca in America, insomma, dove, insomma, si sa cos'è successo in questi ultimi anni, e ha cominciato una ricchissima attività di produttore per Tina Shi, Solange Knowles, Sky Ferrer, FK Twigs, Haim, Florence, Carly Rae Jepsen, addirittura Chemical Brothers, Kylie Minogue, eccetera, e comunque a portare avanti questo suo progetto Blood Orange, dove ha già pubblicato 4 album dal 2011, Coastal Grooves, poi Cupid Deluxe, poi Freetown Sound, è stato molto molto lodato dalla critica, fino ad arrivare al 2018 per Negro Swan, ovvero cigno nero, cigno negro. Il pezzo prima che abbiamo sentito si chiamava Saint, questo pezzo si chiama Hope, con un featuring di Taishi e addirittura Puff Daddy. E siamo sempre negli studi di Radio Città Fujiko per la prima vera e propria diretta in carne e ossa, Radio Città Fujiko 103.1 FM, Radio Città Fujiko .it per lo streaming. Adesso dobbiamo ancora un po' prendere le misure con questo mixer, infatti io non spengo il microfono e poi bevo dalla bottiglietta d'acqua e si sente tutto. When you come around. bring hope, what? I bring hope, yeah. I bring hope, yeah. I bring hope, yeah. Bring hope when you come around. E abbiamo dovuto editare anche questa Hope di Blood Orange. Ci sono anche delle cose che non abbiamo detto completamente della programmazione, ovvero che all'apertura giovedì 1 novembre alle Officine Grandi Riparazioni di Torino, insieme a Tirza e Col Super, ci saranno anche il collettivo di DJ Gang of Dax e il producer italiano Palm Wine, perché comunque da anni Club to Club ha una proprio sezione dal titolo di Italian Wave, che appunto dà luce e evidenza ai talenti di casa nostra. Come non ho detto che sabato 3, in realtà sempre alle OGR, c'è un altro evento parallelo, ovvero una performance di Robin Fox, media artist, curatore, designer, ricercatore e musicista, una delle figure più importanti e trasversali della scena artistica contemporanea, compositore e improvvisatore nell'ambito della musica minimalista, delle sonorizzazioni, delle installazioni e delle sculture sonore. E quindi ci sarà questa performance dell'australiano Robin Fox, mentre noi ritorniamo sempre main stage sabato 3 novembre al Lingotto con uno dei nomi, insomma, anche molto attesi anche per me, ovvero DJ Nigga Fox, portoghese, ovvero angolano di nascita e lisboeta di adozione, che incide per la etichetta di Lisbona Principe, che dà molta luce, diciamo, l'apripista pioniere, tutta questa scena portoghese e di Lisbona, che incorpora elementi della musica africana, quindi batida, kuduro, batucada, e stiamo ascoltando tre pezzi, un seamless mix, quasi non si sente la differenza, di tre pezzi tratti dal suo ultimo lavoro che si chiama Cranio EP. E il primo pezzo che abbiamo sentito si chiamava Sinistro, adesso stiamo ascoltando Poder do Vento e poi ci sarà KRK DJ Nigga Fox. Cioè Robin Fox e Nigga Fox. Questo EP Cranio è la sua prima uscita per la Warp. Ma sono molti di più i generi, io insomma ho nominato quelli insomma più semplici, si è detto il kuduro, afro house, funanà, kizomba, angolan deep, takashigne, batida. Nigga Fox, suo vero nome Rogério Brandão. E ho visto una cosa che non c'era fino a qualche giorno fa, ovvero che anche lui si è unito alla line up della serata di chiusura, ma non ci siamo ancora arrivati, siamo ancora a main stage di sabato 3 novembre al Lingotto di Torino, Club to Club 2018. Ma in realtà non l'abbiamo già visto, perché nel 2015 già ha partecipato Club to Club, infatti avevamo suonato il suo pezzo Apocalipsi, tratto dal suo EP di allora, Noit e Dia. Mm. questo inizio così bright che fa ricordare gli Avalanche dei tempi d'oro in realtà è Eve Tumor, un artista che io non ho mai associato a questi suoni. Molto più pop, molto più alt pop, molto più indie pop, bellissimo disco questo ultimo, Safe in the Hands of Love. Vero nome Sean Bowie, nato in Tennessee, con un debutto appunto molto virato sullo sperimentale. Invece adesso questo disco contiene appunto questi pezzi così brillanti. Questo primo pezzo che abbiamo scelto, e saranno tre, si chiama Noid. Siamo passati al secondo pezzo che abbiamo scelto di ascoltare per tratta da Safe in the Hands of Love, si tratta di Lifetime, e questo album in realtà è il terzo, sempre edito da Warp, dopo il debutto del 2015 con When Man Fails You, seguito l'anno dopo da Serpent Music, e addirittura il voto di Pitchfork per questo album, ma siamo d'accordo, è 9.1. Cresciuto a Knoxville in Tennessee, ha iniziato a fare musica a 17 anni imparando da autodidatta a suonare batteria, basso, chitarra e tastiere, e appunto ha descritto la sua vita nel Tennessee come spiacevole, in effetti per un queer, molto molto queer e molto nero, sicuramente ha avuto delle belle esperienze, quindi a 20 anni si è trasferito in California, a San Diego, e poi dopo il college a Los Angeles, dove ha incontrato Mickey Blanco. E ricordiamo a proposito che Mickey Blanco sarà l'ospite speciale della Roboterie, serata bolognese presso il Cassero di novembre, mi sembra il 23 novembre, sì, credo venerdì. E ricordiamo, già che ci siamo, che stasera 26 ottobre, per il party inaugurale del Gender Bender Festival, ci sarà il mega party stasera di Roboterie, bacini bacini a Gianni e a Strobot e a tutti gli altri amichetti che tra poco incontreremo, appunto parte inaugurale Gender Bender con il duo sudafricano Faka, cioè deve essere anche Sophie, ma stendiamo un velo peloso perché purtroppo ha cancellato l'ultima leg, gli ultimi show del suo tour europeo, ma consoliamoci perché oltre a Bologna ha cancellato anche Tel Aviv, Stoccolma, Oslo, Anversa, eccetera. E siamo passati all'ultimo pezzo che abbiamo scelto di ascoltare dal disco di Eve Tumor, si tratta di All the Love We Have Now. Fighissimo disco, davvero. We'll be right back. una sorpresa all'ascolto per un disco che in se stesso è proprio stata una sorpresa, nel senso che a settembre è uscito senza alcun annuncio previo. Siamo passati alla programmazione del secondo stage, Crack Stage, quest'anno non più Red Bull Music Academy, ma la Red Bull Music Academy è presente sempre, non so, con la collaborazione pluriennale con il Club to Club Festival, ma lo diremo tra un po'. E il primo nome della lista è Curtsy, una DJ danese che ha fondato una sua propria etichetta, quindi non ci sono, non è una producer, non lo è per ora, ha solo fatto un'etichetta, la sua, una compilation, la sua etichetta con diversi DJ della scena di Copenaghen. L'etichetta si chiama Couleur, con il progetto Couleur 001, uscito proprio questo mese. Riesco a trovare il suo nome di battesimo, ma cosa importa? Come per Liberato, cosa importa? E il secondo nome della lista è quello di Leon Vinehall. Questo primo pezzo, anzi questo primo, sì, primo pezzo e unico che ascolteremo dalla sua ultima uscita è veramente fenomenale. L'album si chiama Nothing Is Still, questo pezzo si chiama From the Sea / It Looms, tra parentesi Chapters 1 e 2, nel senso che tutti i pezzi di questo disco poi hanno, sì, sono dei capitoli di questo concept album dedicato all'avventura dei suoi nonni. Lui è britannico, ma i suoi nonni negli anni 60 si trasferirono, emigrarono dall'Inghilterra a New York. E poi evidentemente o loro o la loro prole sono tornati in Albione. Questo album edito dalla Ninja Tune è un artista che è attivo dal 2012 e che in passato ha prodotto tracce house, deep house, UK bass. Anche lui una decina di EP dal 2012 a quest'anno. E poi è arrivato questo Nothing Is Still. Devo dire che qui c'è una citazione abbastanza chiara, secondo me i Forbidden Colors, la cui musica immortale scritta da Riki Sakamoto, e la parte vocale ancora più indimenticabile David Sylvian per la colonna sonora di Merry Christmas Mr. Lawrence, altrimenti detto Furio. Abbastanza spiccata la somiglianza, anche le note quasi. comunque una produzione interessante, in quanto anche l'uscita del 2014 su EP Music for the Uninvited praticamente parlava della presenza queer nella scena house. Poi in realtà, insomma, hanno dato vita alla scena house con le varie, appunto, houses, queste famiglie con delle vere e proprie madri e figli di persone giovani cacciate di casa o scappate di casa, soprattutto ispanici o neri, gay o trans, assolutamente più acqua, assolutamente descritti in modo molto molto bello e molto vero dalla serie televisiva Pose. E finisce Leon Vinehall e passiamo a un altro personaggio anche molto interessante. Credo sia stato, no, forse era Yves Tumor, che è già stato Club to Club l'anno scorso. Si tratta di Serpent with Feet. E questo è il bellissimissimo pezzo di inizio e suo ultimo album, si chiama Soil, si chiama Whisper. Nights all are downtime, making love, breaking their backs out of fear. I'm here with you. I know you feel too old, but if you whisper, only I will hear you. I know you feel too old, but if you whisper, only I will hear you. I know you feel too old, but if you whisper, only I will hear you. Una frase semplice ripetuta, lo so che ti senti troppo vecchio, ma se tu sussurri io ascolterò, quasi appunto un gospel. Josiah Wise, trentenne di base a Brooklyn ma nato a Baltimora, cresciuto, e non mi sorprende, una famiglia religiosa. Il padre era proprietario di una libreria cristiana, sua madre era direttrice di un coro e infatti ha fatto parte della scena New Soul di Filadelfia, ma è molto più di questo, e quindi anche un flusso di musica elettronica sperimentale. E poi si è trasferito a New York, dove ha pubblicato il primo singolo. Il debutto nel 2016 con l'EP Blisters e Chic, prodotto da The Axe and Cloak. E anche lui è un queer di colore, e fin da giovane età, ci dicono, ha usato la musica gospel per esprimere la sua sessualità e è pieno appunto della descrizione dell'amore queer, amore omosessuale, insomma, che è il fine dell'amore, della sofferenza, del desiderio e tutto quanto. In questo album Soil, pubblicato per la Triangle, Secretly Canadian Triangle, sì. 8.1 per Pitchfork, Leon Vinehall 8.2. Whisper it to me. E siamo passati invece ad un'anteprima, in quanto questo è il primo pezzo diffuso di un album che deve uscire a giorni. Si tratta dell'album di Vessel, pseudonimo di Sebastian Gainsbourg, che noi abbiamo conosciuto e scarrozzato, perché se non ricordo male, cioè mi ricordo sicuramente che l'ho conosciuto, l'ho scarrozzato per una serata di Robot Paz che ha avuto luogo al TPO, e credo che fosse appunto la serata insieme a Ben Frost. E questo pezzo che stiamo ascoltando, appunto anteprima dell'album, si chiama Argo, tra parentesi, For Maggie, Vessel. Credo veramente che l'edizione di quest'anno, se possibile, di Club to Club è ancora, c'è ancora più qualità, molta più qualità che in passato. Magari le altre edizioni sceglievano i nomi nuovi di scene, pure si chiamavano etichette che facevano tipo il loro showcase tra DJ ed esibizioni. Qui ascoltando tutto, ascoltiamo tutto, veramente sono artisti che hanno fatto veramente degli album quest'anno fenomenali. E anche Vessel pubblica per la Triangle. E l'album Queen of Golden Dogs uscirà il 9 novembre. Ascoltando, ho avuto l'anticipazione dell'album di Vessel, Sebastian Gainsbourg, dopo Order of Noise nel 2012, Punish Honey del 2014, sempre per la stessa etichetta Triangle. Bello, è un casino bellissimo. E dopo Vessel passiamo a Noise, non lo so, non gliel'ho mai chiesto, eppure potrei, perché un amico, Alberto Ricca, conosciuto grazie al 3 anni fa, il mio lavoro da driver per Robot Festival, dove lo trasportai, e poi da allora ci siamo visti sempre al Club to Club. Anche lui parte a pieno titolo dell'Italian New Wave, insegnante, fondatore di un'etichetta di improvvisazione radicale, Floating Forest, e musicista elettronico. Già in passato abbiamo messo un suo pezzo tratto dall'album Meanwhile Tomorrow del 2015. L'anno scorso ha partecipato al Club to Club per un programma speciale, ovvero lo spettacolo di danza contemporanea To Be Banned from Rome, che ha debuttato a Torino Danza nel 2017, e insieme alla danzatrice e coreografa Anna Maria Imone. E invece l'ultima uscita da cui ci ascoltiamo il mix dei due pezzi che formano questa uscita, super super editati, si chiama Sharawaji III come numero romano. Questo primo pezzo si chiama Move Your ES e sarà seguito da Not to Disappoint Anyone. Potrebbe anche essere il titolo dell'EP, nel senso che di generi lui ama appunto la commistione tra generi, sempre in bilico tra pezzi più contemplativi e il clubbing. E ha pubblicato quest'ultimo EP per l'etichetta veneziana Enclave. E sulla sua pagina Bandcamp leggiamo: Sharawaji è il sublime delle piccole cose. Tracce molto lunghe che esplorano liberamente la forma techno, con un contrasto profondo tra suoni analogici imprevedibili e invece registrazioni di suoni del mondo reale. Soprattutto in quest'altro pezzo che stiamo ascoltando, Not to Disappoint Anyone, un pezzo improvvisato e editato da Alberto durante la sua residenza a Tokyo per la Red Bull Music Academy 14. E finisce questo mix delle due tracce dell'ultimo lavoro di Biennoise. Mi piace dire la francese, d'altra parte è piemontese, quindi il francese sta benissimo. E passiamo a Silvia Castel, italiana di base a Germania. Sarà Berlino? Secondo me sì. Una musicista che esplora i meccanismi e i confini di no wave, industrial, dub, elettronica estrema, free rock e improvvisazione. Ci ascoltiamo dal suo ultimo lavoro, 2017, credo. Questo pezzo si chiama Heart to Tape, l'album si chiama Air Lows. Thank you. E con Silvia Castel si chiude la programmazione, si chiude la grande abbuffata della programmazione del weekend, venerdì e sabato al Lingotto Fiere. Lei è l'ultimo nome nell'ordine in cui lo trovate iscritti in questo momento del Crack Stage, il secondo stage del Lingotto, che di solito era sponsorizzato e comunque non come, non so, Jägermeister che sì, o la birra o Jack Daniel che è lo sponsor dell'alcolico del momento, ma proprio la Red Bull Music Academy, ovvero di questa, non so, scuola per super producer che vengono appunto portati in giro per il mondo e fatti studiare e imparare e suonare con dei tutor che appunto hanno fatto la stessa strada un po' prima di loro, ma come accennavo prima il connubio tra Red Bull Music Academy e Club to Club rimane ancora, perché nella serata di domenica presso il Club Palazzo ci sarà una presentazione di uno show che sta facendo un tour mondiale, si chiama Digging in the Cards, e presenta l'esibizione dei due dei più famosi e rispettati compositori di colonne sonore e musica per videogame giapponesi, ovvero Yuzo Koshiro e Motohiro Kawashima. E accanto alla loro performance esclusiva ci sarà il fondatore della Hyperdub, ovvero Code9, grande amico del festival, infatti aveva animato lo street party di San Salvario un paio d'anni fa, che eseguirà un AV, ovvero Audio Visual Live Show, con l'illustratore giapponese Koji Morimoto, e sul palco lì raggiungerà anche Nick Dwyer, un DJ e regista della videoserie di Green the Cards, appunto di questo tour, di questo progetto, un DJ di base a Tokyo. Ma essendo Silvia Castel l'ultima artista del sabato, dove siamo passati? Siamo passati alla domenica. E come giovedì 1 novembre, anche la giornata di chiusura della domenica 4 novembre vede un evento speciale in uno dei luoghi speciali che in questi ultimi anni Club to Club abita, ovvero la Reggia di Venaria, una delle varie dimore, ville dove i reali Savoia andavano a caccia come stupinigi. E parlando di Hyperdub, ma ne parliamo dopo, perché invece quello che stiamo sentendo adesso è solo uno dei due nomi sempre italiani che suoneranno nella serata conclusiva. Anche questa serata è ingresso gratuito ad esaurimento posti, sempre attraverso la pagina dedicata e il link dedicato che troverete sul sito. E a questi due artisti, due progetti, si è aggiunto anche DJ Nigga Fox, che abbiamo ascoltato prima. E invece quelli che stiamo ascoltando sono i primi Tipo Art, che ho avuto modo di conoscere e ascoltare per un'edizione, sempre penso di 3 anni fa, del Robot Festival qui a Bologna. E stiamo ascoltando un pezzo del loro ultimo EP che si chiama Crap Suite. Si tratta di Security, però nella versione remixata da Mesh, che ha suonato a Club to Club l'anno scorso e che ha anche suonato per la preview del Club to Club insieme al Robot primavera scorsa, credo, al Teatro Comunale qui di Bologna. adesso tornando su l'elenco degli artisti, vedo anche che sulla S c'è un secret guest. E invece Primitive Art nascono nel 2011 dall'unione del ravennate Matteo Pitt e del bresciano di origini colombiane e guyanesi Jim C. Ned, entrambi del 91. E il primitivismo non allude alle avanguardie storiche artistiche, ma ad un approccio istintivo e tribale nel fare musica, e questo ultimo EP Crabsuit è stato pubblicato per una etichetta, una sublabel sempre della Warp, quindi complimenti. Dicevo, una sublabel che si chiama Arcola. Invece appunto torniamo alla Hyperdub di Code9, per cui invece ha pubblicato l'EP nel 2017 Creature, Mana, ovvero una vecchia conoscenza, Daniele Mana, già Vaghe Stelle, già un terzo dei One Circle con Lorenzo Senni e Francesco Fantini, che forse abbiamo visto che lì è Palazzo Renzo. E già l'anno scorso avevamo suonato un pezzo da questo EP, perché anche l'anno scorso ho partecipato a Club to Club, il pezzo in questione si chiamava 6-9. C'è anche un altro pezzo, Rabbia, molto influenzato dai suoni di Lorenzo Senni, e ci sono anche altri tre pezzi meravigliosi. Stiamo ascoltando il primo, si chiama Fade, sarà seguito poi da Crystalline e si concluderà questo piccolo mix con Uno e Solo, Daniele Mana, Mana, e sarà lui insieme a Primitive Art di DJ Nigga Fox a chiudere il festival in grande alla Reggia di Venaria domenica 4 novembre. Ricordiamo, ingresso gratuito a previa iscrizione sul sito dedicato, mentre parallelamente ci sarà la serata di chiusura a Club Palazzo con il progetto che abbiamo raccontato, Digging in the Cards, con gli autori più famosi di colonne sonore di videogame e lo stesso Code9. Questo EP, creature forse piuttosto che creature, e sicuramente giocherà su questo singolare plurale in inglese e in italiano. Abbiamo parlato di quello che sarà Club to Club 18ª edizione, una produzione Explosiva Records, una città dove è sempre bello tornare, l'unica valida alternativa a Bologna, rimanendo in Italia, diciamo sempre, con i miei amici, per un festival la cui qualità è in continua ascesa, ovviamente ci vogliono anche i soldi, e uno dei sponsor, l'abbiamo detto, è l'Absolute Vodka. Infatti lo scorso venerdì siamo andati per una preview dell'Absolute Night con Jacques Green a Firenze, come l'hanno fatta a Milano con Avalon Emerson e Sophie, e come appunto Absolute Targa, l'Absolute Symposium all'hotel AC, dove ci sono questi incontri organizzati da Max Dahl e Carlo Pastore, dove ci sarà la Radio Raim. E insomma, venerdì e sabato ci saremo anche noi. E Marco Rimasto. Ciao da Claudia Mighty Mau per questa prima diretta un po' impacciata dagli studi di Radio Città Fujiko. Venerdì prossimo non ci saremo, perché saremo appunto a Torino, magari manderemo questa replica della serie mentre voi l'ascoltate, io lo sto guardando, e buon ascolto. Ciao da Claudia Mighty Mau.